In libreria e fumetteria già dal 3 febbraio Essere Montagna, il fumetto edito da Bao Publishing di Jacopo Starace. Io sono qui per parlarne proprio con lui. Ciao Jacopo, buongiorno. Ciao, ciao Rachele, grazie per avermi invitato. Tuo fumetto, come dicevamo appunto, è uscito già da qualche giorno ed è già nominato in una selezione di un festival francese molto importante, e quindi ti chiedo subito come è stata questa notizia. Folgorante, è stato nominato per il premio Ecofov d'Angoulême e non me l'aspettavo. È un premio a tema ecologico, quindi premia il miglior libro ecologico. Diciamo che è già passato e non ho vinto, però già la nomination per me è stata folgorante, anche perché Angoulême è diciamo il festival più importante di fumetto della Francia, quindi per me è stata una grande soddisfazione. Allora, tornando ovviamente al fumetto, dicevamo, si parla di ecologia e ti sei inventato un mondo immaginario e fantastico in cui appunto si sviluppa questa storia, quindi non posso che non chiederti da dove ti è arrivata l'ispirazione appunto per creare tutto questo mondo. Ma l'ispirazione è arrivata dalla natura, da quello che c'è intorno. Tra l'altro, per creare il mondo, come prima cosa andavo nei boschi e fotografavo a destra e a manca le cortecce degli alberi, i funghi, concentrandomi molto sul microcosmo, ecco. Poi diciamo che mixando un po' i vari elementi sono riuscito a ricreare qualche mondo sospeso, no? Come ci sono per esempio dei punti in cui c'è, non so, ci sono questi coralli che escono in superficie, oppure ci sono queste piante stranissime. Ecco, diciamo che ho preso spunto da ciò che è reale, da ciò che vedevo durante le mie escursioni. Ti volevo chiedere la parte più difficile di creare appunto questo immaginario, sì. Qual è stata invece quella che ti ha più divertito, ecco? Allora, la parte più difficile in assoluto, Rachele, è stata creare la società in cui vivono gli esseri formica, si chiamano così, sono questi esserini piccolissimi che vivono all'interno di questo microcosmo naturale, e lì creare la società è stato veramente complesso, perché ho dovuto capire come si muovevano, come la natura, come avrebbe influenzato tutto il loro mondo, no? Perché comunque fuori dal loro villaggio c'erano bestie feroci, c'erano pericoli, soprattutto per degli esserini alti pochi millimetri, no? Vivendo in questa natura che può essere soverchiante. Quindi quella parte è stata veramente complessa e fortunatamente mi hanno aiutato i miei editor francesi, che mi hanno proprio fatto un terzo grado su tutta la società, quindi quante squadre di persone c'erano, chi si occupava di cosa, eccetera, eccetera. E il world building, diciamo che è stata la parte più faticosa, mentre la parte più bella, più interessante e meno faticosa è stato, secondo me, creare i personaggi, perché una volta inquadrato bene il world building, i personaggi sono venuti fuori quasi naturalmente e mi sono sentito libero, ecco, di inventare il più possibile. Riguardo invece le tematiche su cui poggia, no, la storia di Essere Montagna, su che cosa volevi far riflettere i tuoi lettori? Insomma, abbiamo già parlato in realtà di un tema all'inizio, no, l'ecologia, quindi immagino che questo fosse un tassello fondamentale. Assolutamente, guarda, i temi sono tanti, nel senso che non c'è solo il tema ecologico, ma c'è anche un tema molto attuale, perché comunque la storia parla di un'epidemia, momenti che abbiamo vissuto tutti noi. Certo. E parla delle conseguenze di questa epidemia anche in un mondo molto più piccolo del nostro. C'è il tema c'è il grande dibattito tra scienza e religione. Dibattito che si è acuito anche a seguito di quello che abbiamo vissuto. È una storia che parla di sacrificio, ovvero di quanto le persone siano in grado di sacrificarsi per coloro che amano. È una storia che parla di guarigione, di pace, a vari svariati temi, ecco. E ha anche questo tema ecologico, che è un tema diciamo di sottofondo, perché noi vediamo che c'è qualcosa che non va all'inizio del libro e piano piano iniziamo a comprendere che la situazione naturale è molto compromessa, perché c'è un grande inquinamento delle plastiche in cui poi i personaggi si muovono. E quello che vorrei che, ecco, il lettore traesse da questo libro è un dubbio, mi basta anche solo un dubbio, cioè mettere in dubbio le proprie convinzioni, per me sarebbe già una cosa grandissima. Perfetto Jacopo, ti volevo chiedere giusto al volo se per caso passerai per Bologna per un firmacopia, se girerai un po' l'Italia a presentare il fumetto. Allora, sicuramente sì, non so dirti adesso la data precisa perché ancora non è nella scheda, però sicuramente passerò a Bologna e anzi verrò molto volentieri perché Bologna la amo, mi piace un sacco. Bene, allora noi ti aspettiamo e io, Jacopo, ti ringrazio. Ma grazie a te, Rachele, per avermi invitato.